Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Qualcuno ha detto che se parliamo di efficienza energetica in campo industriale l'unico limite è la fantasia. Se infatti case, uffici e centri commerciali, insomma, sono tutto sommato dei luoghi con problematiche molto simili. Regolazione della temperatura e illuminazione, bene o male, sono le due principali attività energivore in tutti questi luoghi, a cui poi, vabbè, si aggiungono magari elettrodomestici ed elettronica. Ebbene, invece, in campo industriale la varietà dei processi è enorme e sono perciò altrettanto numerose, ma anche molto più, specifiche le opportunità di risparmio energetico. Questa sera allora cercheremo di provarvelo con l'aiuto di Giovanni Bartucci, che è titolare dell'omonimo studio di ingegneria che lavora proprio in questo settore dell'efficienza energetica e più in generale, insomma, della riprogettazione degli impianti industriali. Buonasera Bartucci. Buonasera Melis, buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora, voi entrate nell'industria, ne vedete un po' di tutti i colori, cose buone, sicuramente anche sprechi incredibili. Allora, iniziamo però dagli interventi standard. Velocemente, che cosa si fa più di frequente nelle industrie in campo efficienza energetica? Ma devo dire più che di frequente, più facilmente, sì, che si fa nel campo dell'industria sono, ovvio, evidente, motori elettrici ad alta efficienza, una cosa molto interessante, molto anche abbastanza semplice, perché si tratta di sostituire un motore. Sì, dei motori, piuttosto che l'utilizzo di inverter per migliorare anche lì l'efficienza energetica di utilizzo dell'energia elettrica, piuttosto che, mi viene in mente anche abbastanza semplice, l'illuminazione a LED. Certo. Un altro sistema, tra l'altro molto diffuso, che possiamo considerare e semplice da usare, è la cogenerazione industriale, che ormai sono decenni, devo dire, che è un sistema utilizzato per quindi la produzione contestuale di calore ed energia elettrica in modo da ottimizzare l'utilizzo del combustibile, insomma. Esatto. A volte invece, e forse lì si aprono le opportunità più grandi, si deve intervenire proprio sul processo industriale, e qui diventa spesso però anche un po' più difficile, vero? Eh sì, perché qui si mette mano al cuore del sistema produttivo dell'azienda o di un'azienda, si mette mano anche a un sistema non solo tecnologico, ma anche di abitudini, di usi, di gestionali, di abitudini degli operatori. Di competenze degli operatori, immagino anche. Di competenze, sì sì, assolutamente. Ecco, facciamo qualche esempio. Guardi, io partirei da uno di quelli più, chiamiamoli, eclatanti e paradossalmente anche più semplici, perché si tratta di cambiare il modo di gestire la logistica di un materiale usato in un determinato tipo di industria, che è l'alluminio. L'alluminio generalmente viene prodotto in pani e riutilizzato, utilizzato dall'utilizzatore finale, rifondendolo per certo la propria lega e utilizzarlo nei propri processi. Una cosa, un sistema presso un nostro cliente che ha dato dei risultati molto interessanti è quello di produrre l'alluminio liquido, evidentemente, ma di trasportarlo anche liquido, quindi evitando la rifusione da parte dell'utilizzatore. Quindi si salta un passaggio di fusione che immagino consumi un bel po' di energia, perché fondere un metallo è sempre un'operazione molto energivora, e quindi ci sarà un camion che trasporta alluminio liquido direttamente al destinatario, che però dovrà usarlo anche subito, perché sennò si solidifica. Esatto, sì, infatti quello che dicevo, bisogna cambiare un po' di abitudini anche in termini di logistica e di abitudini. Questo camion, tra l'altro questo trasporto evidentemente è fatto con omologa da parte del Ministero dei Trasporti, quindi un Ma camion certo, che viaggia è trasporto legale, sta dicendo, insomma. Meno male. Assolutamente. E l'utilizzatore evidentemente non può mettere la siviera coibentata da parte e usarla quando vuole, deve versare il prodotto che gli arriva in un forno di mantenimento per mantenere l'alluminio liquido allo stato liquido e utilizzarlo via via che gli arriva, quindi è un cambio proprio della filiera logistica, però i risultati sono decisamente impressionanti in termini di risparmio energetico. Certo, certo, immagino. Qualche altro esempio? Ma esempi sono quelli del recupero di calore, ad esempio recupero di calore a scopi di riscaldamento, piuttosto che anche di produzione di energia elettrica da forni di fusione per la produzione dell'acciaio, piuttosto che della calce, piuttosto che di tutti i processi energivori. E poi c'è il grande mondo dei sistemi di controllo avanzato, basato ad esempio sulle analisi di parametri in tempo reale ma in condizioni estreme, ad esempio sui processi di fusione che prevedono fumi ad altissima corrosività, ad altissima temperatura. La capacità di analizzare questi parametri e di utilizzarli in un sistema di controllo può permettermi di ottimizzare il processo stesso. Perché altrimenti quello che si fa è, per non sbagliare, come dire, ci si va giù con la mano un po' più pesante, per esempio si usa più energia di quel che serve. Esatto, si usa più energia di quel che serve per garantire magari la qualità del prodotto, e però evidentemente si spreca dell'energia. Ottimizzando si ha la stessa qualità di prodotto, ma si porta in dote evidentemente un grosso risparmio energetico. Grazie Bartucci. Grazie a voi. Ci fermiamo qui, ma nelle prossime settimane torneremo sull'argomento con dei focus stretti sull'efficienza energetica in campo industriale. Per intanto, buona serata.